nelle presentazioni. Ecco, forse perché ci... perché non stiamo tanto attenti. Infatti, Annabella, perché non stiamo attenti? Mi sembra che Annabella ci abbia fornito un ventaglio di attività per mantenersi in forma. Abbiamo detto mens sana in corpore sana, fa anche giardinaggio, bisognerebbe fare anche un po' di attività fisica. Assolutamente sì, è dimostrato che l'attività fisica è benefica per il nostro cervello perché stimola la produzione di sostanze neurotrofiche. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. E a proposito di cervello, quando dovete concentrarvi, usate un sottofondo musicale o invece preferite il silenzio? Vi siete mai chiesti perché la musica per alcuni funzioni da attivatore, da integratore, se vogliamo dire, per altri invece sia quasi un elemento di distrazione, specie se si è impegnati in un compito che richiede concentrazione, quasi fosse un granello di polvere dentro un ingranaggio? Ma io, cari amici, credo che per rispondere a questa domanda sia necessario fare un passo indietro per andare a vedere che cosa succede nel nostro cervello quando ascoltiamo musica. E in linea con noi è tornata a trovarci la dottoressa Luisa Lopez, responsabile scientifica del progetto Neuroscienze e Musica della Fondazione Mariani. Dottoressa Lopez, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Dottoressa, per molto tempo si è sostenuto che la musica attivasse l'emisfero destro e il linguaggio quello sinistro, ma la ricerca è andata avanti ed ora la situazione è molto più chiara. È molto più chiara e anche molto più complicata. Ahimè. Cioè le tecniche di neuroimmagini oggi ci parlano di fascicoli che sembravano unicamente funzionare durante le attività linguistiche, quindi nell'emisfero di sinistra, che invece diventano plastiche anche dopo allenamento musicale, e ci parlano per esempio di situazioni nell'emisfero di destra che sembrava non essere assolutamente linguistico, che invece si attiva quando facciamo degli allenamenti. Quindi diciamo che le funzioni sono un po' spalmate nel nostro cervello, quindi funzioni linguistiche a sinistra sì, piuttosto lateralizzate, però poi abbiamo delle cose che hanno a che fare con lo scrivere, il guardare, il comprendere e anche l'emozionarsi, che sono nell'emisfero o sono in tutti e due gli emisferi perlomeno, ecco, non solo a sinistra. E a proposito di emozione, sicuramente avete visto anche con indagini molto raffinate che la musica provoca la attivazione di alcuni centri del piacere, un po' una reazione simile a quella che avviene durante le attività gratificanti come mangiare o fare l'amore. Ma cosa succede nel cervello di quelle persone che dalla musica sono quasi infastidite? In parte ci sono persone che proprio congenitamente non possono apprezzare la musica perché non la discriminano, ma sì, sono veramente poche, il 4% della popolazione. Gli altri forse sono semplicemente non esposti a questo stimolo e semplicemente quindi non alfabetizzati, se vogliamo, ma invece potrebbero utilizzarla e quindi potrebbero essere allenati a provare piacere e educati all'ascolto. Quindi non è detto che davvero ci sia una totale indifferenza. Dottoressa Lopez, abbiamo visto che con la ricerca è andata avanti e direi che la situazione è diventata più complessa. Quello che pensavamo fossero proprio due emisferi disgiunti si attivano e si integrano a vicenda, ma noi possiamo dire scrittura emisfero sinistro, musica emisfero destro, giusto? E vorrei anche esplorare con voi la relazione tra queste due arti. La domanda ce la suggerisce il tema di un nuovo festival che si terrà il prossimo 4, 5, 6 giugno a Cremona, si chiama Le Corde dell'Anima. È un festival che vi segnalo perché è molto curioso, perché proprio la sua caratteristica è di mettere in relazione letteratura e musica, un po' quello che abbiamo così cercato di esplorare con la dottoressa Lopez. In questo festival scrittori, cantanti si scambieranno idee, trucchi e consigli sulla creatività. Dottoressa Lopez, l'ascolto della musica rende comunque più creativi o no? Sicuramente attiva una serie di memorie che quindi rimangono più stabili, no? E noi abbiamo spesso memorie in cui abbiamo varie sensazioni insieme. Alcuni studiosi studiano proprio la sinestesia, quindi quello che succede anche guardando altre sensazioni visive, musicali, olfattive insieme, quindi tutto è fonte di ispirazione. Quindi senz'altro direi che sì, si può diventare più creativi ascoltando musica. Allora, in linea con noi abbiamo Nicoletta Polla Mattiò, benvenuta. Buongiorno, grazie. Consulente scientifico del festival, che, di cui vi ho parlato, del festival che si svolge a Cremona, Le corde dell'anima. E la domanda che ci poniamo prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, Nicoletta, qual è? Quella che vi siete proprio posti voi, sottoponendo anche a scrittori un questionario. L'idea era proprio di creare un dialogo fra scrittori e musicisti, proprio come hai accennato poco fa tu, e quindi il dialogo però l'abbiamo fatto cominciare prima del festival, quindi tutti gli scrittori e tutti i musicisti che abbiamo invitato sono stati sottoposti a una sorta di questionario in cui tutti gli scrittori dovevano dire se componevano con musica di sottofondo e quali erano le loro canzoni ispiratrici, se ci sono, la loro voce preferita, e per contro i musicisti ci hanno detto se dalla scrittura o comunque dalla lettura di libri traggono ovviamente ispirazione per le loro canzoni, e sono uscite delle cose piuttosto curiose che, se vuoi, ti racconto dopo l'intervallo. Certo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e poi allora andiamo a sentire le news da Nicoletta Pollamatteo, sentiamo che cosa hanno raccontato scrittori e musicisti, e naturalmente commenteremo questi risultati insieme alla dottoressa Luisa Lopez. Veloci veloci siamo tornati insieme. Il quesito che ci poniamo, prendendo spunto dal festival Le corde dell'anima che si terrà nei prossimi giorni, 4, 5 e 6 giugno a Cremona, è questo: l'ispirazione di un bestseller è anche merito della colonna sonora giusta? E una canzone che entra nella hit parade può essere merito di un buon libro? Nicoletta Pollamatteo è andata a intervistare una serie di scrittori e di musicisti, e che cosa avete scoperto? Il risultato, direi, per quanto riguarda gli scrittori, è un buon 50-50. Mi spiego: un 50% dice che nel momento proprio della composizione, quindi della scrittura, ha bisogno di silenzio assoluto, mentre invece la musica è una grandissima fonte di ispirazione, ma prima e a volte dopo, in fase di revisione. Per quanto riguarda invece l'altro 50%, moltissimi, e devo dirti, io mi sono molto stupita di questi risultati, perché comunque un 50% è tanto, moltissimi invece proprio scrivono con la musica di sottofondo, come se appunto la melodia desse un aiuto anche a trovare la giusta musicalità delle parole e sicuramente coadiuvasse la creatività. Due nomi: uno, la Vivien Lamarck, che vabbè, la Vivien Lamarck fa una battuta spiritosa e dice: in realtà se posso preferisco comporre con un po' di musica di sottofondo, anche perché sennò a Milano la musica di sottofondo è il traffico della città. E questo è un esempio, ma uno che ha bisogno di musica per comporre, Alessandro D'Avenia, che è stato il giovane romanziere rivelazione di quest'anno. Lui si mette di sottofondo brani per il pianoforte. Lo stesso per esempio Larson, un altro scrittore mitico, anche lui scrive con la musica di sottofondo purché non riconosca le parole, per cui dice, questo è curioso, dice che compone spesso con il sottofondo dei musicisti italiani, perché non conosce l'italiano. Certo. Perché sennò il cervello corre dietro. Ma dottoressa Lopez, Nicoletta Polla Matteo diceva: mi ha stupito. In realtà lei questi risultati la stupiscono oppure se li sarebbe potuti aspettare? No, in parte me li aspetto, come mi aspetto il problema dell'interferenza con la lingua, no? Quindi il problema del shift dell'attenzione, se uno ascolta qualcosa che conosce molto bene anche musicalmente, oppure di cui sa bene le parole o conosce il significato delle parole. Quindi mi aspetto che in quel caso sia un distrattore. Invece mi aspetto che sia una fonte di ispirazione e di aumento della vigilanza, che magari in alcuni momenti diventa aumento di quell'attenzione, quel momento creativo che serve per trovare la corretta ispirazione. Alcuni risultati anche elettroencefalografici ci dicono che cambiano proprio le bande di frequenza dell'EG durante l'attivazione musicale. Dottoressa Lopez, prima di salutarla volevo chiederle da mamma: noi vediamo i nostri figli, adesso si stanno preparando anche gli esami di maturità, poi ci sono gli esami dell'università, insomma studiano sempre con le cuffiette, studiano con la musica di sottofondo, e noi genitori diciamo: ma spegni quella musica che non ti concentri. Gliela lasciamo o non gliela lasciamo? Guardi, sembra che gliela dovremo lasciare, perché a quanto pare questi bambini sono multimediali, quindi sono molto diversi dai nostri cervelli, evidentemente sono una specie aliena, quindi io credo che dovremo lasciargliela, che dovremo solo stare attenti al volume, perché loro mettono gli iPod dentro le orecchie e arrivano all'orecchio interno con dei volumi altissimi. Questo è vero, che bisogna stare estremamente attenti che non siano troppe ore continue di esposizione ad alto volume, ma a parte questo, rispetto a come poi si ispirano eccetera, evidentemente hanno delle risorse che non sono ancora conosciute. Dottoressa, invece per noi che magari facciamo fatica a concentrarci? Secondo me dobbiamo provare, perché in ogni caso, visti gli effetti su vari sistemi, anche quello dell'ansia, quindi l'effetto di scioglimento dell'ansia e di risoluzione anche del dolore, della preoccupazione, l'attivazione del piacere, credo che se non fosse altro per quello noi dovremmo concederci di farlo. Se poi ci distrae, ci concediamo una pausa in cui facciamo questo e poi riprendiamo. Io credo che dobbiamo farlo, ce lo dobbiamo meritare. Ce lo dobbiamo meritare. Dottoressa Lopez, la ringrazio per essere stata con noi. Buon lavoro. Buona giornata. A presto, arrivederci. Nicoletta, vuoi aggiungere qualcosa? Ma mi ha molto colpito il commento della dottoressa Lopez, perché va veramente nella direzione di questo festival, Le Corde dell'Anima. Quello che volevo aggiungere è che sicuramente dobbiamo ascoltare musica anche per aumentare la nostra creatività, ma anche per il potere che è evocativo che ha la musica. Pensiamo al potere proprio di memoria, no? Come bastano due o tre note di una canzone nota per richiamare immediatamente il ricordo della situazione in cui l'abbiamo ascoltato o della persona con cui eravamo in quel particolare momento. E proprio a questo proposito cito un solo appuntamento del festival, ce ne sono tantissimi, ma c'è un laboratorio particolare curato da Duccio Demetrio che ci aiuterà a ricostruire una sorta di nostra autobiografia musicale attraverso appunto le note delle canzoni che più ci evocano ricordi dall'infanzia, dalle ninna nanne fino invece appunto alla canzone. Alla canzone, Nicoletta, te lo dico io, ricomincio da qui. Sorriderò prima di andare, basti non soffio e sparirò, forse sarà pericoloso. E io saluto Malika Yan, che è tornata a trovarci. Ciao Malika, bentornata. Ciao, ciao. L'abbiamo appena sentito, ricomincio da qui, il brano con cui tu hai partecipato alla 60ª edizione del Festival di Sanremo, ma che è proprio un brano che sottolinea questo intreccio, questa relazione che c'è tra musica e scrittura, e direi poesia. È una poesia, è una canzone il cui testo io ho iniziato a scrivere sfogliando una raccolta di poesie di Jacques Prévert, in particolare Le Déjeuner du Matin, che racconta proprio del momento in cui ci si accorge che qualcosa è finito e quindi ecco così ho scritto un testo per la mia canzone sanremese. Senti, ma ti era capitato già altre volte di trovare come fonte di ispirazione un testo, una poesia? In che relazione c'è per te tra scrittura e musica? Ma io credo che sia la scrittura che la musica abbiano insomma, diciamo, in qualche modo lo scopo di canalizzare quelle che sono le nostre emozioni, no? E quindi io trovo che ci sia sempre un binomio. Tante volte mi ispiro anche da quello che leggo su un articolo di giornale, no? Mi lascio ispirare da un articolo di giornale o addirittura anche da qualche frase scritta su un muro. E sono due modi diversi, cioè vanno a stuzzicare, e due sfere sensoriali differenti, ma in fondo con lo stesso modo, cioè insomma nello stesso modo. Nicoletta Polla Matteo direbbe Le Corde dell'Anima. Esattamente. In giro per tutta l'estate con tournée. Esatto. E ricomincio il 26 giugno, appena tornata dal Sudafrica. Ecco, non vedo l'ora. E a proposito di lettura e di letteratura e musica, se posso consigliare un ascolto, è uscito un nuovo album di Tracy Thorn, la storica cantante degli Everything But the Girl, che che un po' racconta l'amore secondo i cinquantenni. E quindi appena l'ho preso in mano, ho pensato subito alle affinità elettive. E questo mi sembra anche un altro esempio eclatante. questo ce lo segniamo, questo ce lo segniamo, un consiglio proprio per noi, per gli ascoltatori di Radio 24. Grazie per essere stata con noi, Malika. Oh, grazie a voi, come sempre, dell'ospitalità. Buona giornata. Altrettanto, ciao. Nicoletta, hai preso nota? Ho preso nota, sì, del suggerimento musicale di Malika. Adesso a te tocca un suggerimento letterario, uno scrittore, una scrittrice. Lo so che come consulente scientifico di questo incontro di Cremona, delle corde dell'anima, non puoi. Magari anche la riscoperta di un classico, perché no? Perché non posso assolutamente privilegiare uno scrittore rispetto all'altro. Io, se posso, non rispondo e ti rilancio invece di continuare questo dialogo che tu hai così lanciato e iniziato via radio fra letteratura e musica, ecco, continuarlo dal vivo al nostro festival Le Corde dell'Anima, dove ci saranno soltanto libri che dialogano con musicisti, quindi non do suggerimenti, ma perché tutti sono buoni se venite ad ascoltarli. Tutti sono buoni, grazie Nicoletta Pollamatteo, grazie a voi che ci avete seguito, l'appuntamento torna domani come sempre dopo il GR delle 11, vi aspetto, buona musica, buona lettura da Nicoletta Carbone.